alla cassa. Due caffè, una brioche e vorrei anche due biglietti dell'autobus, per favore. Due biglietti? Certo. Quant'è? Dunque, i biglietti vengono 1 euro l'uno più 1,90 euro i due caffè e 80 centesimi la brioche. Viene 4,70 euro in tutto. Ecco 5 euro. Ecco il resto e lo scontrino a lei. Grazie. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci.